Sono le 18:25 e state ascoltando Radio Popolare, una giornata veramente pesante perché c'è un morto, un ragazzo di 20 anni. Dalle ultime agenzie il suo corpo è ancora nel posto dove è morto, quindi in via Caffa. Il posto è circondato da un cordone di un centinaio di agenti. Abbiamo pochissime informazioni sull'identità di questo ragazzo. Secondo il TG1 si tratterebbe di un ragazzo di spagnolo, quindi che è arrivato dalla Spagna per manifestare. Buonasera, qui continuano gli interventi in piazzale Kennedy con i manifestanti, quelli che sono riusciti ad arrivare qui, perché lo voglio ricordare, ce ne sono tanti, tantissimi bloccati dalle forze di polizia e non riescono ad arrivare qui in piazzale Kennedy. Cosa importantissima, la manifestazione di domani, quella che era già stata prevista, si farà. La manifestazione domani pomeriggio, lo ha detto pochi minuti fa Vittorio Agnoletto, che ha lanciato un appello con le testuali parole: chiediamo ai compagni di tutta Italia di arrivare qui a Genova tra stanotte e domani mattina per partecipare a una alla manifestazione di domani, che deve essere una risposta di massa. E poi Vittorio Agnoletto ha detto: è evidente che domani le forze di polizia devono essere consegnate. Al nome del Genova Social Forum e di tutte le associazioni che ne fanno parte, in questo momento sembra non esserci divisione dagli interventi che ci sono qui in piazzale Kennedy, evidentemente. Vittorio Agnoletto ha chiesto le dimissioni del ministro dell'interno Scajola, del capo della polizia De Gennaro, e ha chiesto anche la sospensione del G8. Inoltre Agnoletto ha detto, sempre al megafono davanti a questa assemblea improvvisata: chiediamo il rientro immediato nelle caserme della polizia, che evidentemente ha fatto di tutto per arrivare a questa situazione. Io vorrei soltanto raccontare la testimonianza di una ragazza che ho incontrato per strada venendo qua, una ragazza di 25 anni con un occhio livido, gonfio, con dei segni di manette sui polsi. Aveva partecipato al corteo della disobbedienza, non aveva delle protezioni, era dietro a uno scudo e a un certo punto è scivolata. Un amico ha cercato di sostenerla, si è ritrovata tra le braccia di un gruppo di poliziotti che l'hanno caricata in macchina, l'hanno picchiata per lungo tempo. Lei mi ha detto: mi hanno pisciato addosso e hanno fatto delle cose che non si fanno e non si devono fare ad una donna. Dopodiché lei ha iniziato ad avere la lucidità di dire che soffriva di claustrofobia, che lì dentro sarebbe morta, e a gridare, e a un certo punto è stata scaricata dalla macchina. E lei in questo momento era da sola con il suo zaino, con questi segni sulla faccia, e aveva deciso di tornare a casa. Uno dei portavoci del GSF ha lanciato un appello ai manifestanti affinché non lascino piazzale Kennedy a piccoli gruppi per evitare rastrellamenti e provocazioni. Il Genoa Social Forum sta cercando di organizzare il rientro il più possibile sicuro dei manifestanti nei campi di accoglienza, accompagnati da gruppi di legali. Rientro ordinato ma soprattutto garantito. Metà degli interventi sono interventi di tipo operativo, cioè indicazioni che vengono date ai ragazzi e manifestanti che sono presenti qui a Genova, a Piazzale Kennedy. L'analisi sulla giornata: dicevamo, tantissima rabbia, verrà un po' rimandato il punto della situazione a questa sera, perché nei vari campeggi, nei vari luoghi dove le persone andranno a dormire, si continuerà a discutere per capire cosa fare domani, e poi sempre stanotte si tenterà di coordinare tutti i vari gruppi e per domani organizzare una manifestazione che dovrà essere assolutamente non violenta e pacifica.